buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto da Francesca. Oggi sarò da sola ai timoni di Parole Ribelli a tenervi compagnia fino alle 12.45 circa. Ricordo come sempre i contatti per scrivere o telefonare nel corso della trasmissione. Per gli sms potete scrivere al 346-667-3263, il numero del telefono fisso invece è 011-249-5669. Parole Ribelli la potete ascoltare anche in streaming dal sito di Radio Blackout, oltre che da Radio Info Out. Allora, prima di iniziare, un saluto ai redattori mancanti e di In Trasferta a Bologna, Silvestro alle prese con la preparazione degli esami, e un saluto anche un abbraccio a Tommaso, nella speranza che sia in ascolto e soprattutto che oggi finalmente arrivi, insomma, qualche risposta da parte del giudice per le indagini preliminari, che ovviamente arrivino notizie positive. Nel frattempo lo salutiamo, il prossimo pezzo lo dedichiamo a lui, anche a Paolo e Forgi, a tutti i compagni che, insomma, speriamo siano in ascolto nell'impossibilità di essere qua con noi. Vengo al suo cospetto dalle pentole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto il giorno che verrà, sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che l'infamo mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporca. La giustizia va, noi potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia. luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, senza delle scienze, interpo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre dei calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà, ti ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sofferta è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione. La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, sai tu certo che ha due pesi e due misure, la giustizia fa paura anche a più giusti, è evidente già lo sai, è una questione di gusti. La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, spaccata, milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria, siamo il sale della storia, da Sparta qualche para, dall'arti balsara, alba chiara di speranza, la sostanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici, il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina, Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam, la giustizia è niente senza libertà. Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità, e se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione o sei parte del problema. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione oppure parte del problema. La giustizia è aver tempo per pensare, poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia vera supera i confini, la giustizia vera supera i confini. Allora 11.09, andiamo a vedere quali saranno gli argomenti che affronteremo nella puntata di quest'oggi di Parole Ribelli. Andremo a metterci in collegamento con Roma, dove per questa mattina è stata indetta una mattinata di mobilitazione all'interno dell'Università La Sapienza, quindi ci faremo un po' raccontare quello che si sta muovendo, anche quali sono le prossime iniziative, insomma tutto quello che sta succedendo anche in vista dell'11 luglio. Per quanto riguarda invece la città di Torino, daremo ovviamente conto di quanto accaduto negli ultimi giorni alla Cavallerizza Reale, dove insomma per questo fine settimana era stata indetta una 3 giorni di eventi, di dibattiti e di spettacoli, al termine dei quali poi domenica l'Assemblea Cavallerizza e le tantissime persone che hanno attraversato quel posto in questi 3 giorni hanno deciso di proseguire con l'occupazione, di non restituire insomma quel posto all'abbandono, che era insomma il destino che gli veniva un po' prospettato da parte dell'amministrazione comunale in attesa di svenderlo, insomma per risanare un po' le malmesse casse del comune di Torino. Quindi ci metteremo in collegamento con uno degli occupanti per farci raccontare un po' com'è andata, quali sono insomma le tematiche che sono uscite in questi 3 giorni di discussione, anche quali sono i prossimi appuntamenti. Sempre per rimanere in tema di Torino, poi ci sposteremo poi al campus universitario Luigi Einaudi, dove la scorsa settimana gli studenti e le studentesse della campagna Campus Invaders hanno conquistato non solo più simbolicamente ma proprio praticamente materialmente uno spazio, un'auletta che era chiusa come tanti altri degli spazi insomma in quel posto, e che da insomma dalla scorsa settimana è a disposizione di tutti. Sono già molte le iniziative in programma, quindi ci faremo raccontare dalla voce di uno di questi studenti quello che sta succedendo. Questo è più o meno tutto, ovviamente i microfoni di Radio Blackout sono sempre aperti per eventuali aggiornamenti in tempo reale per quello che si muove in città e non solo. I contatti li ripeto: 346-667-3263 il numero di cellulare, 011-249-5669 il telefono fisso. Vi lascio ancora un po' di musica in attesa di preparare la prima diretta. Buon ascolto. Le peuple croit, divisé dans la peur, trouve un permis. sono di un fan, sta tutta la vita, si può qui ma lo attamente faccio ma così non fanno la parola, sai che si fa lì, che più di son fan, sul capo si è resi, camminare di surveillance, quelque anni non si vive, pour aseptiser nos relais, la parte sociale che ci vede, aujourd'hui les fachos s'affirment, elles nous humilient, la ville n'est plus au peuple, nos marchands d'immobilier, sont spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis la guerre au port est déclarée, c'est de nos vies, on est fruits, c'est de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter la rue, qui s'est pillé par son loin, on ne laissera pas monter la rue, car la rue nous appartient, il veut dessiner la partie, on dessinera le mal, on ne sera pas approprié, tout ce qui est ombré pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve, sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des emplois, nos quartiers populaires, c'est des femmes qui poussent à la place, nous victorisent, nous prenons la guerre pour nos emplois et à la case. Les cowboys sont armés, prennent goût à ta base, veulent faire péporter le vase pour mieux pouvoir boire la tasse. C'est une nouvelle ordre qui tape jusqu'à nos quartiers, police featuring Air France, si jamais t'y a pas de papier, Babylone. Construit son empire sous misère, depuis les droits de l'homme sont morts, dans une vague policière, génération de émissaires. Les cours de jeunes, le frérot écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot, 2008, injustice, y'a qu'une mur et des tensions, des familles, même des enfants, enfermés en rétention, survivre. Il est devenu un mode de vie, des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre en pauvre est officielle, c'est que ça va trop loin, pas d'apartheid dans la rue, nous appartient. C'est de nos vies, on est fruits, c'est de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter la rue. Qui s'est pillé va trop loin, on ne laissera pas monter la rue, car la rue nous appartient, il veut dessiner l'apartheid. On dessinera le mal, on ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve, sans droit, solidarité, on est ensemble. Chiffon a le nombre et de la rue nous appartient. Nous sommes européennes, réhabilitation, synonyme d'expression et d'acceptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la traque. Pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous amène à la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui tirent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Un papier humilié par les quartiers du chaos. Compagnie aérienne comprise de la nouvelle Gestapo. Tout pour la peau. Pour les charters de la honte. Fichage d'ADN, bruit, blessure et déportation. J'appelle à la résistance. Mobilisée sur le terrain. Désobéissant car la rue nous appartient. Mais c'est de nos vies. On est fruits, c'est de nos vies. On ira occuper la rue. Comme tous les immeubles vides, on ira affronter la rue. Qui s'est pillé va trop loin, on ne laissera pas monter la rue. Car la rue nous appartient, il veut dessiner la partie. On dessinera le mal, on ira se réapproprier. Tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier. Sans rêve, sans droit, solidarité, on est ensemble, le front est sans voix. E arriva un sms al 346-667-3263 che ci segnala un posto di blocco dei vigili infami su Lungo Sura Lazio, quasi al ponte di Corso Giulio Cesare. Grazie, ci sti sempre da Luca. Quindi segnaliamo. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlons de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés. La création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés. Ils sont jurés, crachés, craignent, entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont gâchées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande ingrat aurait réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Plus étonnant quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disait transparent alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseille fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis des avions se sont crachés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Une fraîche blasphème et la vraie lumière se fait lécher. Tu tenais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui. voir ta plein fort. Y'a quelque chose, une injustice quelque part. On descend tous, y'a un problème quelque part. On descend tous. Leur place et de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On verra une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué, ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Ticinese. E sempre per il servizio Cisti Viaggiare Informati, se state aspettando il 72 fate attenzione perché alla fermata di Via Lucento ci sono controllori in attesa di salire, quindi Cisti. Nel frattempo vi lascio un ultimissimo pezzo musicale, tra pochissimo avremo Matteo da Roma che ci spiegherà l'iniziativa di Porte Aperte alla Sapienza che sta iniziando proprio in questi minuti all'Università Romana, quindi rimanete sintonizzati tra pochissimo con la diretta. Senza padroni. What it is, Johnny Dog, Malatesta. Drop! This is for the people, this is for the people. This is for the people, this is for the people. This is for the people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless, for those who on the train but are coachless, for those with the vomit but are foolish. We this, believe this, aye. This is for the people who are never heard. Cause we have so much more to say and no one gets to hear. Step going through this life and we driven by fear. This is for the people who are never heard. And this is for those who change on the feet. So we're scared to move, y'all was scared to his feet. And this is for those who go nonstop. Nurturing the children harassed by the cops. It's like fuck the man, he has served the few. In this world of vertical madness, what are we to do? Is there a time served for the people never heard? Remember the coming years like they're already gone. When desperation conquers reason, it's a treason to be home. On ourself without knowing, you're feeling the mold. Contemplating survival and it's something so old. This is for the people who were never heard. Cause where everything will never be. Separate from our true potential, we could be so much more. But this fear culture reigns on us and it ain't incidental. We're scared of each other, steady keeping us from our basic essentials. But if I am you and you are me and we share knowledge, come and we pull in strength from one another, then we wouldn't need these managers or masters. These fuckers sucking on us like cancer. We are never heard cause they never asked us. They wouldn't like the answer. It's a hush hush been silence for years. We ain't living through our fears, so fuck your careers. And this is for the people who are never heard. We have so much more to say and no one gets to hear. Stop telling through this lane and we driven by fear. This is for the people who are never heard. And it's making me feel funny like a bad remix, but it's something we can fix. And these tricks are for kids, and this is my bed for another society. Living horizontally, what it be, wanna be. Constantly thinking of another way to say we can do better. We all have ideas on how shit can work better together. But it's like a lost love letter. So much good intention, but it's never delivered. A misconnection, options never considered. I'm saying it now, cause of broken people, we can't be so. This is for the people who are never heard. Say, this is for the people, this is for the people. This is for the people, this is for the people. This is for the people. Hey, hey. E come no, e cazzo, trovo in doppa la testa di San Francisco. We take anti-status advice and give up on it. Listen instead to the voices from below. Voices from below. Maledetto il suono della sveglia, è una veglia dannato un altro giorno sulla terra. Bombarda la tensione dei miei nervi. Il mondo è popolato da servi e con gli inviti, con l'odio per i ricchi. Che siamo pazzi e messo agli atti. L'orgoglio qui si vede nei fatti. Per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge. Perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera e ti ho pecora nera. Né essere re vita né unirmi a questa schiera di assassini. Allora 105-250, sempre all'ascolto di Parole Ribelli, come promesso iniziamo con il primo approfondimento per la puntata di quest'oggi. Abbiamo a questi microfoni Matteo dalla Sapienza di Roma, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Matteo, ci senti? Matteo, ci senti? Mi sento malissimo. Ok, proprio quasi niente. Prova ad alzare un po' i volumi dei microfoni, così mi senti meglio? Migliora, ma siete veramente molto molto lontani. Allora proviamo a richiamarti, vediamo se migliorano le cose. Perfetto, vi ringrazio, aspetto. Allora qualche problema col telefono che mi veniva già segnalato durante l'info, vediamo di risolverlo al più presto. You know, pop the bolts from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior deeps like them, I can't be. So I made a decision, we can make a choice. Antagonista pizza, antagonista pizza life. What if Obama and the bankers and the generals and the IMF, CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting differently? Anger to action, to action, to action. Anger to action, to action, to action. Anger to action, to action, to action. Muori, rendo spesso palese il fatto che sto di fuori. Il vostro gruppo sparla del mio gruppo, ma il vostro gruppo spalla, ho detto su. E sulla spalla porto il lutto, mi ricorda di stare a galla quando salta tutto. E quando crolla la mia stabilità mentale, su una strumentale verso un'abilità totale. E non mi serve d'amare, mi serve un amaro. L'amore fa alimentare l'amaro, fa alimentare il pensiero di farla franca. Fernet branca, mi ripeto che è tranqua. Dico che tranqua non è tranqua mai. Di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dico che tranqua non è tranqua mai. Di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dice che è tranqua, qualsiasi cosa succede. Che basta avere fede, che casca chi non crede. Che resta sempre in piedi chi vede il lato positivo dove nessuno lo vede. Qua dice che... Allora, riproviamo con la diretta da Roma. Abbiamo nuovamente Matteo a questi microfoni. Adesso ci senti meglio? Adesso vi sento, sì, okay. Un pochino vi sento. Bene, meno male. Allora, niente, Matteo, sappiamo che questa mattina alla Sapienza avete lanciato questa iniziativa che si chiama Porte Aperte alla Sapienza, che riprende un po' quello che è un evento che viene organizzato dall'università, insomma, che viene organizzato in tutti gli Atenei, che è quello di presentare alle future matricole le varie università. Voi l'avete ripreso un po' ribaltato anche in un certo senso, per mettere invece in luce quella che è poi la situazione reale dell'università alla Sapienza, rispetto soprattutto agli spazi abbandonati, quelli in continua cantierizzazione. Avete già una serie di esperienze che state portando avanti, penso al lucernario occupato, ma non solo. Quindi niente, ti chiederei prima di presentarci un po' appunto qual è la situazione da cui siete partiti per lanciare questa iniziativa, anche quali sono le varie, insomma, tappe che avete in programma. Sì, sostanzialmente è come dici tu, cioè l'assist per fare questa iniziativa c'è, cioè, dalla Sapienza stessa, che da anni organizza a luglio una due giorni, tre giorni, in cui presenta tutti gli studenti neodiplomati i suoi corsi e millanta servizi che nessuno riceverà mai una volta immatricolato, e hanno pensato bene di chiamarla per l'appunto Porte Aperte alla Sapienza. Noi sappiamo bene che le porte alla Sapienza purtroppo non sono aperte, ne abbiamo riaperta una quest'anno ad ottobre, quella del lucernario, che era uno stabile sostanzialmente abbandonato a se stesso, parte di un cantiere in cui non veniva fatto assolutamente nulla, e allo stesso modo hanno fatto tante altre realtà nelle varie facoltà, anni addietro, quest'anno, come i ragazzi di chimica, e tutte queste realtà hanno deciso di mettersi insieme, parlarci e cercare di capire, insomma, come poter dare legittimità a tutti questi spazi occupati, come poter in qualche modo creare una rete comune per difendere quegli spazi e conquistarne di nuovi. E oggi siamo qui, siamo davanti alla Minerva, siamo un gruppetto abbastanza numeroso e faremo un corteo interno che andrà appunto a segnalare tutti gli spazi relegati all'abbandono all'interno della nostra città universitaria e che probabilmente uscirà anche all'esterno delle mura universitarie per andare a segnalare spazi abbandonati limitrofi all'università e che noi vorremmo tanto diventassero uno studentato, e che probabilmente se non lo faremo noi potremmo aspettare in eterno per questo. Per cui niente, stiamo per partire, siamo radunati qui e faremo un giro, passeremo da chimica, da fisica, dove c'è un'aula abbandonata, una mensa assolutamente abbandonata, poi torneremo al lucernario, passeremo da giurisprudenza e scienze politiche, dove ci sono due aule occupate, e chiuderemo fuori per poi tornare al Pradone e dare vita lì ad un'assemblea pubblica in cui speriamo riusciremo a prendere parola anche insieme ad altri studenti sul tema appunto degli spazi abbandonati. Questo è un po' il programma della giornata. Ok, sì, quello che dici insomma lo ritroviamo sicuramente anche per quello che il contesto che conosciamo, ovvero quello di Torino, penso all'esperienza della biblioteca occupata del terzo piano, ma che è stato insomma forse solo l'esempio più palese nel momento in cui chiudevano le aule studio e c'era questa enorme biblioteca abbandonata e chiusa da anni, ma insomma ci sono anche tanti altri esempi in cui appunto gli spazi già esistenti vengono chiusi e ne costruiscono magari di nuovi affidandoli in mano a privati, a banche che spesso poi non sono neanche funzionali alle esigenze reali, quindi credo che il senso sia anche un po' non andare a sostituirsi a dei servizi, ma provare proprio a costruirne di diversi. Guarda, io oltre a stare al lucernario sono anche tra i 40 sgomberati il 7 aprile a Via Cesalpino che tentavano di aprire uno studentato chiamandolo Godot, e quello secondo noi è un po' l'emblema di quello che succede oggi all'interno delle strutture dell'università. Quello era un ex dipartimento che l'università ha dovuto abbandonare perché affittava da un privato per carenza di fondi, e dopo poco dalla dismissione dell'affitto questo privato è stato costretto a venderlo, giri strani con la proprietà, e quando siamo entrati sappiamo un po' tutti quello che è successo. Nel giro di 45 minuti hanno cacciato tre reparti celere in maniera abbastanza così discutibile, diciamo. Ci aspettavamo uno sgombero, ma non certo in quei termini, per cui diciamo che oggi siamo qui sia come universitari sia come progetto Godot per tentare di ribadire ancora una volta che noi abbiamo intenzione di andarci a riprendere quegli spazi, quello spazio nello specifico, e pensiamo che lo dobbiamo fare noi adesso, e siamo contenti di aver riscontrato all'interno appunto dell'università diciamo una sorta di condivisione su questa linea di pensiero. Ecco, non siamo più 10 scemi che si aprono uno spazio e decidono di farci un file sharing, un hack lab dentro, ma adesso è un'esigenza sentita perché gli spazi non ci sono proprio più, cioè non ci stanno più. Io studio giurisprudenza, abbiamo un cantiere che va avanti da 4 anni, dentro c'è morto anche un operaio, Mohamed Bannour, a cui è stata intitolata per quello che vale l'aula che fa parte del cantiere di scienze politiche, e sappiamo meglio probabilmente di tanti altri quello che significa essere l'ateneo più grande d'Europa e non avere assolutamente spazi né per le lezioni né tantomeno per lo studio, figurarsi insomma per un minimo di socialità, che è quello che cerchiamo all'interno di questi spazi noi, volendo. Va bene Matteo, sei stato molto chiaro insomma anche rispetto alla questione degli studentati, che sicuramente è sentita ed è aumentata di fronte insomma tutta la dismissione del diritto allo studio, delle borse di studio. Ci senti? Non ti sento più. Ci senti? Pronto? Matteo, mi senti? Matteo? Pronto? Niente, il telefono continua evidentemente a dare problemi, siamo comunque riusciti a fare insomma il grosso della diretta come volevamo, insomma penso che a questo punto la prosecuzione della puntata sarà un po' complicata vista la situazione dei telefoni, comunque facciamo del nostro meglio. Vi lascio a un po' di musica e insomma vediamo se ricontattare Matteo o meno. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dico che tranco e non è tranco mai. Di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dice che è tranqua, qualsiasi cosa succede, che basta avere fede, che casca chi non crede, che resta sempre in piedi chi vede il lato positivo dove nessuno lo vede qua. Dice che è tranqua ma non credo che sia tranqua. Quello che mi manca non è fette, è protetto in una banca. Intanto aspetto e resto in panca. banca. Vedo ladri col Ferrari mentre gente onesta arranca. A me mi piace viaggiare, ma devo pagare l'affitto, se no mi faccio cacciare. Sento la rabbia che sale, la devo placare. Mi dici che è tanto, sì, beh, fa cagare. Oh, mi hai salutato e mi hai detto che è tutto a posto, ma torno a casa e nella testa c'ho un mostro. Mi chiudo in bagno e faccio spazio ai miei pensieri e mi ripeto in questo viaggio che forse era meglio ieri. Io sono in piedi in una stanza ed ho l'ansia che mi mangia, avanza dentro alla mia stanza. Ogni mattina prima che mi sveglio sogno qualche medicina per sentirmi meglio. E questo è il clima ed è meglio se andate, e chi sta in cima lo aspettiamo che cade. E allora dai, dimmi adesso che fate, non mi dite tutto a posto che vi prendo a testa. Dico che tanto non è tanto mai, di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dico che tanto non è tanto mai, di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. A gonfie vele, direzione Messico. Vado al massimo, non so bene, sto benissimo. In paradiso con le corna e il forcone. All'inferno sono lista, firmo nome e cognome. Vado senza direzione mentre arranco. Fuori moda, fuori forma e fuori dal branco. Ricette firme sotto banco. Nel nome del padre, del figlio e del camice bianco. Fuori e dentro dalla farmacia. 8 anni in terapia, laurea in psicologia. Non me ne vado da qui. Mezzo Lexota nel drink, il maestro lo prende così. È tranqua. Intanto penso ai 30 e 40 e l'ansia da dentro mi mangia. Finire a dormire su una panca o finire a lavorare e morire in banca. E non passa, io scasso un impianto, scarico sul colpo di cassa e non piango. Ruoto nel fango ma non so mica Rambo. Qua io resto de carne in un mondo de plastica. Abituati dalla nascita che la normalità non è d'asse ma d'asse da fa qua. La serenità è rara, io me la godo adesso perché un attimo e finisce in una bara. Dico che tranco non è tranco mai, di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dico che tranco e non è tranco mai, di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dico che tranco e non è tranco mai, di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Dico che tranco e non è tranco mai, di questa storia passa ma non passa mai. Ho l'ansia, sai, la testa mia non si rilassa mai. Se c'è da bere quindi passa, dai, dai. Allora, vista la diretta da Roma che si è interrotta un po' brutalmente a causa dei problemi tecnici, ne approfitto per riprendere un attimo il discorso che faceva Matteo, non solo rispetto agli studentati, un discorso che abbiamo ripreso anche nella puntata della settimana scorsa di fronte alla notizia che appunto a Torino verrà costruita una nuova residenza per gli studenti, ovviamente lontana dal centro di Torino e quindi scomoda insomma per raggiungere la maggior parte delle facoltà, ma non solo, una residenza che verrà affidata nella sua costruzione a una società che viene gestita per la maggior parte da Caltagirone, che è insomma un personaggio, un palazzinaro che i compagni e le compagne di Roma sicuramente conoscono molto meglio di noi. Quindi insomma vicende emblematiche. Ci sono tante altre residenze che invece a Torino sono state chiuse, da cui sono state cacciate gli studenti, in cui alcune stanze sono state messe in affitto invece che essere date a chi insomma ne aveva diritto. Quindi sicuramente un discorso che conosciamo bene anche sul nostro territorio. Per quanto riguarda gli spazi in università, ne approfitto invece per lanciare fin d'ora un appuntamento che ci sarà la prossima settimana, che riguarda un'esperienza molto simile a quello che ci a quelle di cui ci raccontava Matteo, che è quella della biblioteca autogestita del terzo piano, che è nata nell'ottobre di quest'anno, insomma, e che anzi era già la sua seconda esperienza dopo l'esperienza dell'anno scorso, sempre a Palazzo Nuovo, aveva occupato l'ex biblioteca di giurisprudenza all'inizio di quest'anno accademico. Ovviamente come per tutti gli spazi occupati in università incombe poi sempre un po' il problema dell'estate, nel momento in cui le facoltà vengono chiuse, quindi il rischio dello sgombero si fa più concreto. Ovviamente è intenzione di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno animato, che continuano ad animare questa esperienza, che non vada a terminare con la fine dell'anno, ma che anzi a settembre riparta più forte. Quindi è già stato lanciato un appuntamento per mercoledì prossimo, 4 giugno, alle ore 14 in atrio, in cui confrontarsi tutti assieme su insomma come impostare una campagna contro lo sgombero, soprattutto pretendere soluzioni ai problemi dell'Università di Torino, che sono tanti. No, semplicemente la chiusura di spazi di socialità, che ai bisogni dell'università di risposte ne hanno dato invece tante, dando uno spazio per studiare, per mangiare, banalmente anche solo per scambiare due chiacchiere. Quindi insomma, per tutti quelli che hanno attraversato quello spazio, anche per quelli che ancora non l'hanno fatto, l'invito ovviamente a partecipare, a essere protagonisti, perché quell'esperienza continui a vivere. Quindi appuntamento il 4 giugno, ovviamente ci sarà modo di parlarne anche nella puntata della prossima settimana, ma inizio ad annunciarlo. Vi lascio ancora un po' di musica, poi ci spostiamo invece alla Cavallerizza Reale per vedere un po' cosa è successo negli ultimi giorni. Sempre per quanto riguarda le iniziative della biblioteca del terzo piano, ricordo l'appuntamento di oggi da mezzogiorno e mezza per il pranzo sociale nell'atrio di Palazzo Nuovo. Se non ho i contatti degli altri, so che conta sì il punto d'arrivo, ma primo da dove parti. E sono a terra se prendo una sberla, mi alzo e ringrazio la mia buona stella. Mi passa avanti ogni persona bella, sta in campana perché so che ti sto in cappella. Non c'entro i soldi in una fontanella, se guardi i privilegiati non ci sto in tabella. Ma una volta della fame monta in sella senza rivoltella. Ma se avessi i gesti tuo padre io lo investirei, sputa solo veleno per i testi miei. Beccassi mio padre in giro lo investirei, io vesto male, cazzi miei. Io c'ho una malattia, penso che fare con due soldi è la testa mia. Io c'ho una malattia, penso a sto mondo con due soldi è la testa mia, mia. È la vita che vado col freno a mano tirato e con il fratello di drammi che m'hanno accollato e che m'hanno stancato. Ma io non cado e procedo, non chino il capo e non prego. Mi stai davanti, ti prendo e te lancio indietro. Qua la testa non basta, anche il più coglione sorpassa. Se c'è la voglia te passa, una nazione carcassa. Sì, non è questione di casta, qui c'è gente che nasce coi soldi in tasca. Sì, sì, prendo a fallate sto mondo da un po'. Nasco quadrato e muoio tondo, se poi io lo so. Se per cambio figlio gli darò quello che io non ho. E in testa c'ho sto ritornello che mi suona da un po'. Se avessi gesti tuo padre io lo investirei, sputa solo veleno per i testi miei. Beccassi mio padre in giro lo investirei, io vesto male, cazzi miei. Io c'ho una malattia, penso a che fare con due soldi e la testa mia. Io c'ho una malattia, penso a sto mondo con due soldi e la testa mia, mia, mia. I soldi tuoi, la testa mia, mia, sì. Mi prendo tutto e dopo scappo via. Qui, su questa via che seguo, io faccio, non prego. Questa vita qua fa un po' ci allego. Io non ti chiedo niente, tu non mi dire niente. Basta uno sguardo, parlare, non serve più a niente. Mette passione, cuore, quello che ho. E non mi fermerò anche se non ho le banconote in un capo. E ora che sono un padre, io guarderò mio padre. Distinguerò le scelte giuste da quelle sbagliate. Dirò a mia figlia come andare fino in fondo in questo mondo dove chi ha tutto non sa più sognare. Tuo padre io lo investirei, sputa solo veleno per i testi miei. Dicassi mio padre in giro lo investirei, io vesto male, cazzi miei. Io c'ho una malattia, penso a che fare con due soldi e la testa mia. Io c'ho una malattia, penso a sto mondo con due soldi e la testa mia, mia, a chi mia. A chi niente non c'è un perché. E io meglio sotterrato che finito comandato da te. E se qua comanda sempre quel qualcuno che resta un figlio del papà, io te nessuno. E resto solo uno in mezzo a guardie e ladri. Se mi ritrovo senza un cazzo fa me invento i draghi. E non lo paghi quello che abbiamo, perché l'amore non apprezza ed il veleno è il regalo. Il presidente mi dà un consiglio e io metto un ordigno sotto casa di Silvio. Oh, c'era una volta e ci sono per non stare a sentire la vostra bella favola senza lieto fine. Se avessi gesti tuo padre io lo investirei,

qualche cosa davvero. Del fatto che sappiamo fermarci a guardare il cielo. Del fatto che fin quando la vita sfumerà nero rimarremo sorridente. Sì, a fidarla con il dito medio. Dipingo i quadri che ho in testa. È un mondo di ladri ma nessuno li arresta. E forse amore mio la fortuna è questa. Rubiamoci il futuro e poi scappiamo via in fretta. Via in fretta. Vai, accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, uso l'amore come benzina. E nelle fiamme che verranno i falsi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima. Mondo maledetto, uso l'amore come benzina. E nelle fiamme che verranno i falsi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima. Tutto sulla pelle mia e non scappo via la mia. Allora 11:48, siete sempre in ascolto di Parole Ribelli. Come abbiamo annunciato poco fa, andiamo a parlare di quello che sta accadendo alla cavallerizza di Via Verdi. Abbiamo in collegamento Mattia, sperando che ci senta nonostante i problemi tecnici. Mattia, ci senti? Non sento bene. Ci senti? Sì, adesso un po', sì, sì. Ok, va bene, cerco di parlare forte in modo da farmi sentire. Allora, faccio un breve insomma riepilogo di quella che è la situazione della cavallerizza. Ne abbiamo già parlato diverse volte su questi microfoni. Insomma, un bene storico per la città di Torino, che in quanto residenza sabauda è stato anche inserito tra il patrimonio dell'UNESCO, quindi insomma un bene di pregio culturale, artistico e non solo, che però da alcuni mesi è stato lasciato all'abbandono, insomma dopo che le ultime persone che lo utilizzavano, ovvero il Teatro Stabile, è stato costretto ad andarsene a causa dei tagli del comune, della provincia ai fondi per la cultura. Su quello stabile si stanno allungando insomma diciamo varie ombre della speculazione, non è chiaro quello che ne faranno, si parla forse di un parcheggio, forse di una residenza di lusso, forse chissà, però quello che si sa per certo è che sembra che il comune lo voglia svendere per fare cassa. Ecco, contro questo progetto si è creato ormai da diversi mesi questo percorso dell'assemblea cavallerizza 14:45 che per lo scorso fine settimana aveva lanciato una tre giorni, quindi ti lascerei intanto la parola su questo e poi andiamo a commentare invece poi le decisioni che sono arrivate nell'assemblea di domenica. Va benissimo, come dicevi tu appunto c'è questo percorso che va avanti più o meno possiamo dire da 4-5 mesi, cioè da gennaio che ci siamo cominciati a vedere come assemblea cavallerizza 14:45 appunto, domandandoci com'è possibile che la cavallerizza reale, che è per il valore storico ma anche diciamo per un valore sociale che può avere, visto che prima c'era il Teatro Stabile piuttosto che il maneggio, robe varie, come quel luogo lì potesse essere chiuso e soprattutto potesse essere svenduto. Infatti stiamo parlando, cioè il comune dopo diverse aste, gare d'appalto, ancora non è riuscito a trovare un acquirente, tant'è che sta abbassando il prezzo. Se prima aveva proposto 20 milioni di euro, pian piano sta scendendo di prezzo e adesso sta proponendo la vendita a 10 milioni di euro, quindi lo sta totalmente svendendo. E vorrei sottolineare che stiamo parlando di uno dei 30 beni UNESCO che ci sono in Italia, quindi non è solo una struttura così fatiscente che viene chiusa. Boh, detto questo, con questa premessa un po' ci si è cominciati a vedere in forma assembleare da gennaio. Diciamo che appunto è stato un percorso assembleare anche molto, molto travagliato, nella misura in cui l'eterogeneità di questa assemblea comunque sì aveva bisogno di alcune tempistiche per scendere un po' nel pratico, e quindi tra alti e bassi, con diciamo una campagna di sensibilizzazione, abbiamo iniziato a fare le nostre assemblee nel cortile della cavallerizza, che è usufruibile da parte diciamo del pubblico. Bene, dopo sei mesi, ripeto, con un'assemblea molto eterogenea, si è riusciti settimana scorsa, o meglio nel weekend scorso appunto, a declinare e a fare questa tre giorni, che appunto aveva l'ambizione tra virgolette di da un lato avvicinare la cittadinanza appunto a quel luogo, visto che è un luogo che comunque sia pian piano viene anche dimenticato nonostante sia in centro, e dall'altro c'era anche un po' l'ambizione di domandare alla cittadinanza che fare di questo di questo luogo. Ebbene, allora proprio con questa domanda nell'assemblea del venerdì, quindi l'inizio della tre giorni, nell'assemblea pubblica alle 7 di sera, l'assemblea, ma soprattutto l'assemblea che ha domandato alla cittadinanza che fare della cavallerizza, ha appunto deciso di occuparlo. Ecco, poi magari approfondisco un po' rispetto alle tue domande. Sì, tra l'altro, insomma, diciamo che questa due giorni partiva appunto per discutere della cavallerizza, ma mi sembra sia stata poi anche l'occasione per discutere invece di una gestione più generale della città di Torino, dei suoi spazi. Insomma, leggevo una cosa emblematica, che all'interno di, insomma, sul retro della cavallerizza è stato scoperto questo enorme giardino abbandonato, probabilmente anche sconosciuto ai più perché è chiuso da anni, che insomma è abbastanza paradossale in una città che non brilla per spazi verdi, per spazi di socialità, in cui è spesso anche difficile trovare una panchina su cui sedersi, uno spazio del genere viene tenuto completamente chiuso. Quindi mi sembra che poi lo sguardo si sia allargato anche appunto a immaginare una gestione diversa della città contro il modello che si è imposto, diciamo, negli ultimi anni con i grandi eventi, ma soprattutto anche con molta speculazione edilizia. Sì, sì, assolutamente, anche perché quello che dicevi tu è stato determinante nella misura in cui una volta deciso venerdì di occupare la cavallerizza, comunque sì, era stata una scelta tra virgolette da rimettere in discussione nell'assemblea pubblica della domenica. L'assemblea pubblica della domenica, proprio partendo un po' dalla domanda quanto contiamo noi, quanto conta la cittadinanza rispetto ai processi di urbanizzazione, partendo un po' da questa domanda, l'assemblea pubblica della domenica ha deciso appunto di continuare l'occupazione. Occupando e stando qui diversi giorni abbiamo potuto vedere come quest'area sia vastissima e diciamo totalmente abbandonata, e fra questo rientra pure appunto i giardini, una parte dei giardini reali che appunto vengono chiusi, laddove noi l'abbiamo riaperti, l'abbiamo tentati di riaprire due volte, ci sono stati chiusi altre due volte, però il dato un po' che ci ha fatto piacere è che ci continuerà appunto a spingerci ad aprire nuovi spazi anche dentro la cavallerizza, dipende molto dall'attraversamento. Infatti abbiamo notato che sabato, quando aprimmo il giardino, subito di mattina si era appunto riempito dalla gente che con curiosità l'attraversava. Detto questo, adesso stiamo continuando appunto con il presidio permanente tutto il giorno e tutta la notte, ci siamo dati diciamo un'organizzazione assembleare, mettiamola così, che sia il più efficiente possibile, seppur ancora in sperimentazione. Quindi, come è successo domenica, dopo l'assemblea diciamo pubblica e generale, ci si è divisi subito in diciamo macrogruppi operativi, che sono più o meno 3/4, gruppo comunicazione, gruppo teatro e laboratori e gruppo definizione spazi, e tutti appunto poi tutti i diversi gruppi riporteranno, come stiamo facendo, le loro impressioni sia tecniche che diciamo anche politiche nell'assemblea generale che si tiene per adesso tutti i giorni alle ore 7. Ecco, il dato che comunque sia fa molto piacere è che laddove magari come assemblea cavallerizza 14:45 eravamo un gruppo seppur composito ma diciamo anche non numerosissimo, una volta lanciata la tre giorni stiamo vedendo che la cittadinanza sta rispondendo bene, e per la presenza, diciamo per la presenza appunto, perché si viene appunto la cavallerizza, e soprattutto per i livelli di attivismo e di protagonismo che si stanno configurando. Infatti, se partivamo da un'assemblea cavallerizza 14:45 che per sei mesi ci ha visti intorno alle 15-20 persone, adesso si stanno configurando sempre più assemblee partecipate da 50-60 persone. Quindi possiamo dire che da un lato l'ambizione della tre giorni appunto ha coronato, ha portato a verifica tutte le nostre impressioni che come assemblea cavallerizza avevamo, cioè quella sostanzialmente di fare il tentativo di aprire il posto, per poi vedere che comunque sia questo posto si alimentasse da solo e si riempiva da solo. È un po' questa cosa si sta dimostrando adesso, e a livello operativo c'è il gruppo teatro laboratorio molto attivo, che sta già buttando giù una programmazione di 1/2 settimane. Come gruppo logistica si sta continuando appunto con la definizione degli spazi rispetto alle esigenze dei laboratori, e il gruppo comunicazione comunque si sta vedendo appunto per far uscire comunicati e ipotizzare la conferenza stampa. Bene, se stiamo parlando diciamo del quarto giorno di occupazione, noi come Assemblea Cavallerizza, come chi un po' ha iniziato questo percorso, possiamo dire che siamo assolutamente soddisfatti. Sicuramente c'è tanto da lavorare, però la situazione è molto eccitante, ecco. Bene, sì, sicuramente anche per quel che ho potuto vedere io in questi giorni la risposta è stata sicuramente soddisfacente, possiamo sicuramente definirla un successo, credo sia perché insomma è un posto a cui tanti torinesi sono affezionati, che tanti torinesi conoscono, ma anche perché davvero è uno dei casi più eclatanti di speculazione e di abbandono, quindi insomma sicuramente il lavoro da fare è tanto, ma ci sono anche tante energie e tanto entusiasmo per farlo, quindi non possiamo che rinnovare anche da questi microfoni un in bocca al lupo. È arrivato anche un sms che insomma fa i complimenti, scrive bravi, firmato Luca, un vostro amico, quindi li riporto anche qua. Ah, grande. Li riporto in diretta e niente Mattia, noi ti ringraziamo per questa diretta, ci aggiorneremo sicuramente nelle prossime settimane, e nel frattempo l'invito ovviamente a passare alla Cavallerizza, a dare una mano, a partecipare alle tante iniziative in programma, quindi in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Grazie, arriva, ripeto, l'assemblea ogni giorno alle 7, intanto ringrazio voi e tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, buona giornata. A te Mattia, ciao, grazie. Ciao, ciao. Bene, sembra che abbiamo anche risolto i problemi del telefono, almeno finora, quindi notizie positive. Nel frattempo abbiamo fatto le 12, quindi ci prepariamo ad avviarci verso l'ultima parte di Parole Ribelli con la diretta del campus. Nel frattempo un po' di musica. Se la strada è mia, non ho paura, no. Tra quattro mura è terapia per la mia testa dura. Chiusa dentro a un cuore, chiuso dentro da una serratura. Il vento in faccia e non ti chiedi quanto dura. Porto il fuoco qui, dove il fuoco brilla nella notte scura. Ti porto luce se hai paura, ti spiego come usando l'amore per costruirmi un'armatura. Sono anni che corro per stare al passo col mondo. Se il mondo gira ed è tondo, qua si ripete lo sfondo. E a volte basta che arrivi, sti cazzi primo o secondo. Se c'è qualcuno che non lascia, che ti luci sul fondo, vai, accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima, mondo maledetto, uso l'amore come benzina, e nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima, accendo il fuoco dove il fuoco non ci stava prima, mondo maledetto, uso l'amore come benzina, e nelle fiamme che verranno, i pazzi bruceranno, ma gli altri saliranno per restare in cima, non capire mai, non fuggire mai, resta per ciò che fai, non lo lasciare, non scappare, non fermarti mai, non tradire mai, non fuggire mai, resta vero in ciò che fai, non lo lasciare, non scappare, non fermarti mai. E ancora un sms per il CISI al 346-667-3263, segnala un posto di blocco dei carabinieri in corso Umbria, direzione corso Svizzera, quindi nei pressi del Parco Dora, quindi per chi fosse nei paraggi CISI. Rappa bastonate contro le tue bande armate, canto l'odio delle strade, vado a reti unificate contro quello che guardate, ho le granate più pesanti, caricate già le casse, le ho puntate sui rullanti, stiamo intanto, non ci fermeremo qui, noi torneremo, e se il cielo è nero resteremo qui e combatteremo, andremo avanti fino a che qui non ne vedremo delle belle, ammassati come condannati e blindati nelle celle, è una lotta dura e per natura, rimarremo qui, è la censura spazzatura dei giornali e dei TG, per chi si vende spende gira sempre solamente in prima, per chi non ha niente tira bottiglie di benzina, ci va su ma sta qua giù e da tempo non ce la fa più, se tu non credi alla TV non ne puoi più delle sirene blu, per tutto quello che hanno detto e non è vero, per chi

fa rumore quando cade al suolo. Estrati tutti i giorni solo a questo, sempre lo stesso gesto, sempre lo stesso gesto, sempre lo stesso gesto, fino a quando non diventerà perfetto. Pazienza, pratica, allenamento, sopra il tempo, rallento il mio respiro per ridurre il battito. In addestramento tattico, attuo questo schema classico, adatto per fare sta roba, silenzioso come in cobra. Metto il plastico sotto a sto rap che va de moda, in prima fila non si arretra mai, che siano botte di mortaio, calci dei Muay Thai. Vai, vai, te callo forte, Giappone contro le Hawaii, pronto alla morte, fratello, tu chiamami samurai. Nome in codice, spacca ossa, intorno al disco le transenne, da adesso in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la vita mossa, pensando studi e manganelli, soltanto con il rap è roba nostra. Nome in codice, spacca ossa, intorno al disco le transenne, da adesso in poi sto posto è zona rossa, sopra il palco con la vita mossa, pensando studi e manganelli, soltanto con il rap è roba nostra. Ciao, sono morte cattiva. E ancora un breve aggiornamento da Roma rispetto a quanto ci raccontava prima Matteo dalla Sapienza. L'iniziativa di questa mattina, come ci annunciava tra le righe anche a questi microfoni, ha riaperto e occupato uno spazio abbandonato. Si tratta di una biblioteca nel Dipartimento di Chimica, che adesso appunto è stata rimessa a disposizione degli studenti. Quindi insomma riceviamo e riportiamo con piacere anche questa notizia. Vi lascio a un ultimo pezzo mentre preparo la diretta dal Campus Luigi Einaudi. Colle del Fomento, gente deportiata, deportiata, di nuovo insieme, perché qua è tutto sbagliato. E mi capisci, sì, che non lo so se mi capisci, però sì, nel nome dei partiti, della chiesa e delle banche, un paese che è il cimitero, lavoro nero e morti bianche, auto blu, luce lampeggiante, sparano e poi calano il sipario su uno sfondo rosso sangue. Tu non conta più se sei innocente o colpevole, non esiste logica, non ci sono regole, ma trappole per fatta là, fuori dal binario, sei carne da macello, statistica dall'ufficiario, tutto è mannato al contrario, pianificato, sacrificato al dio della finanza e del mercato, il prezzo per il nulla che ti danno è raddoppiato. E in nome del profitto ogni diritto è cancellato. E a nessuno pare strano, tutte queste strade piene di soldati con il mitra in mano, fucile a terza uomo per difendere l'impero. È tutto sbagliato, ma il peggio è che tutto è vero. Lodi che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono, esplodono. Stavo con quello che avete cambiato, che avete lasciato, ed è tutto sbagliato. Siamo occhi che odiano, mayday nella testa, pensieri che esplodono, implodono. Sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato, ed è tutto sbagliato. Così non va, mo parliamo sul serio. Tocca cambiare, ma cambia è meglio, e svario. Pensiero fisso da quando mi sveglio, a giro perso in un mondo che straglio, dove tutto è sbagliato già. Grazie un taglio, mondo mio bello se un guaio sporco, un gioco storto e boom, un giorno un altro morto, un altro corpo che si è portato via un cuore, un'altra bocca che maledice il Signore. Qua più che amore c'è dinamite in questa polveriera, devo fa e devo andare prima che venga sera. Da fuori è tutto sbagliato e si respira nell'atmosfera, e a star fermo impalato non si risolve se la sfera. La mente accesa ma si sa quanto dura, e nella vita ci va coraggio, saggio, figlio della paura. Io intanto faccio se vedo che fa tragura, ho fatto bene, ho fatto male, risposta pura. Sono incastrato in questo stato mentale, dove è tutto sbagliato, è tutto da rifare da capo. Tutto va puttane, è tutto da buttare, nel cranio c'ho un vulcano che è già pronto ad eruttare. E io più primo t'ho sbagliato e sbaglio, avvelenato con la bava e non mi metto nel bavaglio. E c'ho sto bagaglio pieno zeppo d'errori, alla fine non so meglio, t'ho cresciuto qua fuori. E io vengo fuori con la faccia pulita, mio caro onorevole, la faccia finita. Sangue negli occhi e la faccia finita, dico tutto sulla traccia e rido in faccia alla vita. Io resto a galla mentre tutto sprofonda, se tutto crolla dove vuoi che mi nasconda. C'ho il passaporto per l'inferno già timbrato, reso conto sul quadere ed è tutto sbagliato. Siamo lotti che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono e esplodono. Stavo con quello che avete cambiato, che avete lasciato, ed è tutto sbagliato. Siamo occhi che odiano, mayday nella nella testa, pensieri che esplodono, implodono. Sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato, e tutto sbagliato. E è tutto storto, mondo sporco e corrotto. Qui tutto va in malura, però ancora non ci sfiora molto. Siamo distratti dal contorno e mentre fanno i viaggi giorno dopo giorno, infatti dicono che andiamo a fondo. Politicanti fanno pranzi a quattro cifre, vanno in barca alle Maldive, mentre il popolo non riesce a vivere. Qua chi protesta se deprime, hai da ridire. Manganello è la risposta che te danno, questo è il loro stile. Io voglio ogni guardia messa a guardia del suo stile. Ogni partito, ogni politico, il mio stato è stato seppellito. Odio ogni stronzo partorito dal sistema. Odio giornali e giornalisti ed ogni servo che sta messa in scena. C'è sta l'amico del fratello, del cugino. Se dividono il bottino, fanno ride solo chi è del giro. Tutto sbagliato e noi per primi che accettiamo che sto scempio possa esistere perché ancora glielo permettiamo. Tutto sbagliato, pago i buffi dello stato infame. Lo stipendio ai poliziotti merda sulle strade. Per le guerre stipendiate che sponsorizzate. Compenso triplo con i soldi nostri e noi errate. Sotto suolo sono sotto 1.000 euro al mese. Sotto zero le statistiche del mio paese. Sotto scacco delle spese, crocifisse e chiese. Sotto cassa mutuo in bilico e senza difese. Contro mano, contro vento per necessità. Senza terra, senza casa, senza libertà. Disarmato sotto il tiro della società. Quello che ci serve se lo abbiamo ma non può bastare. Tutto cambia, certe cose no. Rubano il futuro in campagna elettorale, ci promettono. Tutto è stato assassinato e non ha mai pagato. È tutto da rifare, più è tutto sbagliato. Con gli occhi che odiano, dinamite nella testa, pensieri che implodono, esplodono. Stavo con quello che avete cambiato, che avete lasciato ed è tutto sbagliato. Siamo occhi che odiano, mayday nella testa, pensieri che esplodono, implodono. Sappiamo quello che abbiamo lasciato, che abbiamo creato ed è tutto sbagliato. Au, gente del Borgata, Colle del Fomento, a voce del popolo, Roma. Ah sì, è la voce del popolo, Ronzu All Stars, non ci puoi credere, la lista del più sporca. 12:15, ultima diretta per questa settimana, siamo in collegamento con Matteo che in questo momento si trova al nuovo campus universitario del Lungodora. Ciao Matteo, ci senti? Matteo, ci senti? Pronto? Matteo? Niente, mi sa che abbiamo di nuovo qualche problema, provo a richiamarlo e vediamo se riusciamo a fare la diretta. Popolo, Roma, ah sì, è la voce del popolo, Ronzu All Stars, non ci puoi credere, la lista del più sporche, ah sì, au. Vox Populi è quello che do, la voce del popolo e la sputo dentro un microfono. Sto scomodo, racconto i danni che me fanno e quelli che me provoco. Ancora sotto effetto di disinfetto una ferita con qualcosa d'alcolico. Rap storico, combatto sta guerra da quando me sveglio fino a quando me corico. La gente è stanca e lo grida più forte, qua non si sogna se sfondano porte. Col momento la borgata sfida la sorte, stanotte te guida fino alla morte. Dalle strade più sporche trasmette, lo sai che non smette, non te ce mette, lascia perdere se io non uso le berette qua per difendere. Do stecche al muro, è il punto più duro. Non vedo il futuro e non credo a nessuno. Io non cedo al ricatto di qualcuno. Do la voce del popolo, vaffanculo. Dimmi euro, Vox Populi in mistero. Corre del Fomento, GDP versus l'impero. Scrivo oltre la mediocrità col pensiero dentro la città, per le strade sotto il cielo, sono dove voglio essere, ma i problemi e le soluzioni in mano le stesse, mai che cambiasse qualcosa, la gente si lamenta, ma poi si commenta da sola. Allora, secondo tentativo, vediamo se adesso Matteo ci sente. Pronto Matteo? pronto, sì, ti sento davvero molto molto molto bassa. Ok, provo a farmi sentire come riesco. Niente, con te volevamo un po' discutere, farci raccontare quello che sta succedendo al campus la scorsa settimana, dopo aver lanciato questa campagna di Campus Invaders che ha già avuto diverse iniziative. Avete ripreso un'auletta all'interno dell'università che era abbandonata e che tra l'altro era stata usata per l'iniziativa di Acunito, che quindi si legava bene a tutta una serie di discorsi che avevate fatto rispetto a questo evento vetrina organizzato dall'università. Quindi ti lascerei la parola per farci raccontare un po' com'è andata, quali sono le prossime iniziative in programma. Sì, esatto, come hai detto te, mercoledì scorso, dopo 3 mesi già di iniziative forti di una presenza di Campus Invaders che si stava facendo sentire in università su varie vertenze, ci siamo riappropriate appunto di quest'aula completamente inutilizzata dall'Università di Torino e stiamo portando avanti alcune iniziative. Oggi ci siamo aperti per la prima volta verso l'università offrendo una colazione agli studenti del campus, e domani ci sarà il nostro solito pranzo sui pratini, il picnic sui pratini dell'università che da quando è nato il campus ci siamo ritrovati chiusi e che anche lì ci siamo riappropriati con una serie di picnic, e domani porteremo avanti un'iniziativa per chiedere l'ampliamento del numero degli armadietti in cui depositare gli zaini per entrare in biblioteca, forti già di una vittoria nel fatto che siamo riusciti a far aprire l'università, la biblioteca dell'università per 2 ore aggiuntive. Inoltre poi giovedì ospiteremo il collettivo di sociologi, antropologi, comunque studenti di scienze sociali con un cineforum che si era già avviato alla biblioteca occupata a Palazzo Nuovo in cui sarà un documentario di Art of Killing sui genocidi in Cambogia. Quindi comunque appunto l'aula che abbiamo trovato era completamente inutilizzata e completamente vuota, quindi adesso con il tempo, con gli aiuti delle persone, abbiamo già creato un'aula studio operativa in cui gli studenti possono venire a studiare e stiamo puntando a un ampliamento del numero di tavoli, sedie, di materiale vario per creare il miglior clima di socialità. Perfetto, se vuoi spiegare anche dove l'aula, insomma, visto che la superficie del campus è abbastanza ampia, davvero ci sono ancora tantissimi spazi di cui probabilmente gli studenti non sono neanche a conoscenza, perché è tutto ancora un po' chiuso, un po' in cantiere, eccetera, quindi se vuoi spiegare bene come raggiungervi e come trovarvi per chi, insomma, volesse venire anche solo a studiare qualche ora o vedere quello che succede. Allora, non sono sicurissimo di aver capito la tua domanda, che ti sento molto male, comunque la biblioteca, cioè l'aula la C1 che abbiamo, come si chiama, si trova a fianco al bar, al piano terra, in una posizione molto centrale e di passaggio per andare verso la main hall, quindi subito in realtà a fianco al bar su Lungo d'Ora Siena. Perfetto, sì, la domanda era questa, anche se ti è arrivata poco chiara, niente, quindi rinnoviamo l'invito a passare, andare sulla pagina Facebook Campus Invaders, dove ci sono tutti gli appuntamenti della settimana, insomma, speriamo che... Scusa se ti interrompo, volevo solo ricordare, certo, anche che domani abbiamo alle 6 di mercoledì c'è appuntamento con l'assemblea fissa di Campus Invaders, quindi se persone vogliono venire a proporre qualcosa o comunque venirci a conoscere, è assolutamente un'assemblea aperta. Perfetto, allora ricordiamo anche questo appuntamento e insomma buon proseguimento con l'invasione del campus, speriamo che prosegua insomma conquistando sempre più spazi in università. Grazie mille, ciao a tutti e a tutte. Ciao Matteo, ok, con qualche difficoltà questo quello che accade al campus, quindi già da quest'oggi ci sono appuntamenti, per cui date un'occhiata su Facebook, vi lascio ancora un po' di musica, poi ci avviamo verso la conclusione della puntata. Corre, mette fretta, voci dal popolo in diretta. Tra barre e barre, mantenere sta testa intatta. La spalla sotto i piedi scorda, se ti siedi non t'aspetta. T'ammazza, GDP alza manetta. Esci di casa con sta roba e leggi non sa scritta. E sì, che t'appartiene qui, non trovi vita scena. Trovi il mondo che c'è intorno che conosci bene. Capo di me stesso, Daniele, CRC supremo. Dal basso come tu, in mezzo al mare terreno. Ma il quotidiano impressi, segni di come messi stiamo. Persino un mondo che va a pezzi, ma qui campiamo. Dalla persona io lo mandiamo, scena per scena, porto con me quel gusto strano. Supremo qua, no Superman, ma l'uomo fuggi dal popolo, perché da là che veniamo. Lo sai che c'è a canna, c'è. Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce, tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Lo sai che c'è a canna, c'è. Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce, tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Per quanto fai rate, per quanto te la stai in pastiglia con le tue cazzate. Questa è Vox Populi, che ve credevate? A noi non ci smuovono manco con le cannonate. Dalle borgate fino al centro ve coprimo tutti, ve famo fare i botti, ve raccattiamo a tocchi. Andiamo a casa, rapper, sparlocchi, perché dico solo quello che ci passa sotto l'occhio. Stile da cecchino, e ce lo sai che spacca. Porto Pasquino, Lucantino, pure il mio patacca. Dall'attico di lusso alla peggio baracca. Sta roba resta addosso, sì, e non si stacca. Attacca frontalmente, prende, non chiede, parla in nome di tutta la gente che non crede più a preti, guardie, banche, governanti, politici del cazzo, giornalisti e garanti. State tutti quanti alla catena, dal primo cittadino fino all'ultimo sfigato della scena. Noi, schiena contro schiena, GDP e colle, un cervello a sonagli e una lingua con le molle. Lo sai che c'è se me capisci bene, tanto queste iene, serve a poco che mi scuro e niente me ne viene. Voce del popolo come la voce che vive dove la gente è stanca e non vuole più sentir parole. È il sudore del lavoratore sul furgone col magone che chiude in passivo pure sta stagione. Non cerca prove te ce copre, porta notti di passione e non parla certo per le banconote. Siamo GDP per definizione, porta Vox Populi come una volta c'era lo stornellatore. Non era né in televisione, era parlare alle persone, era mette amore dentro una canzone. Sto vicino alla mia gente, mi ha insegnato che a sto mondo se non metti niente, niente è pure risultato. Non ho mai rinnegato e non ho mai scordato ogni persona ed ogni fatto che mi hanno segnato. Lo sai che c'è a canna, c'è. Noi siamo come siamo e non ci piacciono le chiacchiere. La mia musica è Vox Populi e così rimane. Non vi preoccupate quale cose non sono mai cambiate. Lo sai che c'è a canna, c'è. Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce e tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Lo sai che c'è a canna, c'è. Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce e tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Dan Show, Roma, Milano. Dimentica tutto, sta roba vendica pure il torto più brutto. Avvolto nel lutto, io siamo quelli col volto distrutto. C'è pure chi sta meglio, ma ciò con sotto c'è il trucco. Espedienti, esperimenti, la fine mascherati da ex presidenti. Incendi in testa incidono sugli incidenti. Vite incattivite uccidono i sentimenti. A canna coi ragionamenti, la ragione zio non è roba di sti tempi violenti. Aumenta la rabbia, ma non gli stipendi, e non mi di che te ancora te sorprendi. A frate, perdi quel che c'hai se non lo difendi. Non ce nasci stronzo, a sto mondo ci diventi. Non ascolto voci, non leggo commenti. Croci sulle spalle, frammenti di storie con momenti. Dici che c'è, se vuoi da me, a canna frate. Oggi con me, che dici che c'è, se vuoi da me, a canna frate. Oggi con me, muori pensieri, molti sinceri, lievi fini. Film strani, so bellici quotidiani, tra sottili confini. Il bene e il male camminano vicini, ma tra loro sono infami. Troppe voci fanno cori, ma non fanno non domani. Fatte pochi viaggini, come se sta qui ce l'hai davanti. Fermai bling bling, guarda occhi dei passanti. Carucce le scarpe, sì, i volti sono gonfi. Va tutto bene qui, quando quel bene te lo inventi. GDP, Don Giovi, per chi non si nasconde. Voglio scelgo i medi, non muna, dopo giamme e piani. Le lagne le lascio al politico, le critiche al pubblico. Pago io per me, la tua difesa è un obbligo. Non voglio leggi, divise e crediche, non servo fregano un cazzo di un mondo per bene. Quanto un ago nelle vene di un braccio. La madre ammazza, il prete scopa, la guardia spara, il giudice ignora. Col voto risolvi tutto, dai, spera. Intanto sotto casa qualcun altro spira, ma c'è la partita stasera. Affolleranno al calcio sta bara. L'ha detto la TV, va bene signora. Non credo più a un cazzo, respiro merda e non aria. Non credo in questo fratello, non credo in questo mondo. Non mi fa domande perché mo non ti rispondo. Non credo in questo fratello, non credo in questo mondo. Sangue sul quaderno mentre tutto va a fondo. Non credo in questo fratello, non credo in questo mondo. Dimentica tutto quello che c'ha intorno. Dimentica tutto, dimentica tutto. Dimentica tutto, dimentica tutto. Prova a dimentica tutto. Pare che spesso ci riesco. Pare che sto mondo casca e io gli vado appresso. Connesso a tratti, procedo a scatti. Questo è un mondo di passanti. E non avanzi se non mangi sulle spalle degli altri. E io che vorrei farci troppi scassi, troppi inganni. Storie vecchie ormai da troppi anni. La situazione è stabile, puzza e smuove dal fondo. Ed è probabile che ne esci gonfio. Torno a casa accartucciato, con rimorso che ho scordato. Il buon proposito segnato quando mi sono alzato la mattina. La solita manfrina, notte cattiva, seppellisce la giornata passata. Intacca la mia scrima, fa buono tutto tutti. Ma tutto non è per tutti, c'è apparecchio se dai due sforzi riesci a trarne frutti. Se non c'è gacci, non mangi, ti impalli, non vai avanti. Le circostanze mostrano gli atti. Cadi e rialzi, se te dice bene. Collezioni, schegge d'oro e intanto guardi il sangue nelle vene. Cerco di non pensarci anche se sto la frutta. Gioco le mie carte, la mia parte non andrà distrutta. Non credo in questo fratello, non credo in questo mondo. Non mi fa domande perché mo non ti rispondo. Non credo in questo fratello, non credo in questo mondo. Sangue sul quaderno mentre tutto va a fondo. Non credo in questo fratello, non credo in questo mondo. Dimentica tutto quello che c'è intorno. Dimentica tutto, dimentica tutto. Dimentica tutto, dimentica tutto. Dici che c'è, te lo voglio a me. A canna per te, oggi con me. Tu lo dici che c'è, te lo voglio a me. A canna per te, oggi con me. E in chiusura, come sempre, gli ultimi minuti di Parole Ribelli li dedichiamo alla lettura di alcuni appuntamenti. Partiamo da quello di questo sabato, una tappa importantissima in vista della costruzione dell'opposizione al vertice sull'occupazione giovanile che si terrà a luglio a Torino. Sabato alle 2 a Palazzo Nuovo, quindi sabato 31 maggio, ci sarà l'assemblea pubblica a Palazzo Nuovo. L'invito ovviamente è rivolto a tutte le realtà che hanno animato in questi mesi il percorso insomma del 18 ottobre, non solo a tutte quelle realtà che si riconoscono nei movimenti sociali contro l'austerity, contro il governo Renzi, contro l'Europa che parla solo di crisi e di austerity. Sarà appunto una tappa importantissima per definire le parole d'ordine con cui avvicinarsi all'11 luglio e anche su quali pratiche tradurranno poi queste parole d'ordine, non solo l'11 luglio ma insomma in tutta una serie di scadenze di avvicinamento, di mobilitazioni che sarà necessario costruire a Torino e in tutti gli altri territori. Su infoout.org trovate l'appello per l'assemblea che è anche stato tradotto in varie lingue, quindi da far circolare insomma anche al di fuori dei confini italiani. La pagina Facebook di riferimento per seguire tutta la campagna è Ci vediamo l'11 luglio, con i corrispondenti anche riferimenti su Twitter, quindi l'invito anche a partecipare alla campagna con grafiche, slogan, inviando insomma impressioni e commenti, ovviamente a partecipare all'assemblea che ricordo sarà sabato alle 2 a Palazzo Nuovo. Io non sono lupo e non sono lapa, non sono sbirra né giambrello e nemmeno corombrello. Io stasera sta sto luogo e al mobile e fa sto fuoco. Adesso mi si smuove la piazza con sti suonaturirra. Cicciavate a Pippo Lucera, suonate per sta gente che sta frisca da galera. Sparate sta porveri! Nella divina commedia sei, per una vita di cabaret. Montane risse montate a fior di euro, stimolano piccoli sogni nei cassetti della Neuro. Posizione dello schema con il migliore CD, acquisizione del programma con il peggiore TG. Scarse la presa, scappa la piovra, interesse a tasso zero per un pianeta in prova. Benvenuti nel vostro mondo, scegli il canale, spingilo a fondo. Benvenuti. invece per quanto riguarda la giornata di domani, si inizia dalle 8 alle 8.30 con la mezz'ora prima del blackout sui 105.250. L'appuntamento di domani sarà dedicato a delle letture tratte da Vogliamo Tutto di Nanni Balestrini. Lasciatemi nel ghetto ancora un po', perché non si va. Gira, gira, gira, gira, poi si torna qua. Perciò io ci sto. Lasciatemi nel ghetto ancora un po', perché non si va. Gira, gira, gira, gira, poi si torna qua. Per quanto invece riguarda la serata, dalle 19 al Mezcal occupato al Parco della Certosa Reale di Collegno, cena Bella Vita, porta ciò che vuoi trovare da bere o da mangiare. Dove sono? Un attimo, un'esperienza, che non lascio posto alla speranza, forse un gioco, forse un dramma, la vita è un colpo in canna, vivete in spario. E per proseguire la serata, l'appuntamento è poi al CSA Murazzi a partire dalle 22.30 con concerto Hardcore Grind. Suoneranno Zubo da Roma, Ape Unit, Grind Hardcore da Cuneo, i Zeitgeist da Torino e a seguire DJ Set. Passiamo a giovedì 29 maggio, dalle ore 16, giornata Bella Vita, l'Ar Rabello occupato, alle 18, presentazione e dibattito del libro Dada e un cadavere, autoproduzioni Phoenix. Grazie per il ghetto, e a seguire musica e apericena Bella Vita. Quante le città, 808, io resto nel ghetto, mi sei in diretta, sempre in fretta, tra l'ingotto e la E sempre giovedì sera in quel di Via Cecchi torna la Piola di Blackout, quindi appuntamento con musica, alcol e panini nel cortile di Via Cecchi 21 Barra, non mancate. Ai poveri per comprare la skunk, nella guerra fra i banditi, vince il traditore, gode il tesoro per un po', applausi e gloria e poi muore. Perciò, io lasciatemi nel ghetto ancora un po', perché non si va. Gira, gira, gira, gira, poi si torna qua. Perciò non ci sto. Lasciatemi nel ghetto ancora un po', perché non si va. Gira, gira, gira, gira, poi si torna qua. Cantato. E arriviamo a venerdì 30, prima di concludere, anche venerdì mattina l'appuntamento con la mezz'ora prima del blackout dalle 8 alle 8.30 e l'appuntamento di venerdì sarà dedicato a Il barile di Amontillado di Edgar Allan Poe. La sera invece è sempre in quel di Via Cecchio, appuntamento organizzato dal collettivo Femminista Medea e da Radio Blackout con l'incontro Salute e Corpo delle Donne tra espropriazione e autodeterminazione. Interverrà anche la consultoria autogestita di Milano, l'appuntamento a partire dalle ore 21. Parole per mentire, volta a perdere, tutta goccia senza ferro nelle braccia, prima di ogni guerra c'è una minaccia, un avvertimento che ti avverte del cambiamento delle cose, spinose come le rose, amico di viaggio come una dose, non esiste alcun segreto, la tua sicurezza, la tua voglia in autunno, la soglia all'interno oscilla come una strada in stato di ebbrezza, rami secchi induliti, bruciano meglio al fuoco nemico, questa volta non c'è condono, stelle come bollicine di champagne, quando i dici resti piani, one two, non c'è sempre bisogno di far di più, segno dove arrivi, metti una tacca e basta, se non hai così gioca quando la legge bleffa, al botte fino alla fine ancora lunga, scioglie la lingua se un pensiero urla, scegli che fare se non dicono nulla, su questa giostra puoi stare poco, puoi stare tanto, ma quando scenderai è già pronto il conto. Io ho mille lezzi e vai, scusate di là, c'è una pezza calda. Lega, lega, alla tua vicenda io la prendo, la maglione che te dica. Lega, lega, alla tua vicenda io la prendo, la maglione che te dica. Quando sono le 12.39, allora anche per questa settimana Parole Ribelli si conclude qua. Vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 10.45 con insomma il solito puntuale ritardo che ci contraddistingue, fino alle 12.45. Rimanete sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Tra pochissimi minuti il GR, seguire Cattivi Pensieri. Buon ascolto e buona giornata, risentirci martedì prossimo. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca, vi lascio in compagnia della bobina per qualche